la regola di Giambimbo è... Sì, all'anima, è così, sì, poi precato, è materiale precato. Oh, va bene, oh, va bene. Oh, c'è Tradino, hai fatto grande, va bene, ma mettilo dritto almeno, è giusto, sai che ci fai il placcaggio, mettilo un centimetro più fuori, la massa gliene varia. Magari non sono nel settore, compreso la Neviscofani, ero soffrendi, però non andava come tutto, non andava. E che diamine? Lo pensa già, io ho anche la chiave della casa sua, che lui attualmente vive di dentro, la casa è enorme, c'ha roba di 6 camere, cucina e bagno, capito? Vive lì dentro con moglie e 2 figli. E mi ha dato la chiave perché, ripeto, si fida di me, che persona sono, quindi mi fa guidare la macchina, dice no, io ho 3 mesi patente, sei imparato da te, come guidi, sei molto bravo, ma poi ha preso l'altro negozio con l'autorce e l'impianto me lo fai tu. Adesso devi prendere 2 negozi a Cagliari, fatelo conto. Mi guidi tu la macchina, io ti pago, giustamente, e quindi, ma pigliato, ma figlio d'anima, andrà a me. E fai d'assista, quindi? No, io faccio l'autista personale, capito? E più sono il suo elettricista. Ma questo è del Bangladesh. Cappa. Ma che lui c'è dei negozi che ha aperto e c'è lì a dia 3, penso che sta a prendere il 4 con le produttorse. Che già vede? Tutto per il telefono. Ah, non è che incalli lì tipo come vengono i cinesi? No, c'è cioè, tutta una cosa diversa, giusto anche i telefonini, fa tutto. E a me mi ha messo anche il vetro, non ci ho pagato nulla, ci mancherebbe altro. Ah, te l'ha cambiato? Sì, era affidato il mio, me l'ha cambiato. Ma non c'è problema, è bravo, lui è bravo, è che non mi dà un culo, questo mi dà fastidio, perciò lo prendo per il culo, capito? Ma... Quindi, c'è rimasto Antonello e Carlo, ci siete? Lo hanno chiuso perché dice che doveva accompagnare Antonello a casa, chiudeva, poi doveva riprendere. E poi ci mette una passeggiata, mica sta piovendo Antonello, e cadda, thank you, e lontanuccio, dai. Una cosa, ogni qualche trovo si beve la tazza e la moglie arriva tranquilla. Io se non bravo di biaturra. Claudio si è ritratto. Zampi riprendi tu. Tutti in giro sono, tutti in giro, oggi è sabato, giornata affettosa, quindi bisogna approfittare se il tempo lo permette, che va bene, già ce n'è toccare, io sto carino e. Io non posso sapere come mi ricevi tu lì a Sorso. Io ti ascolto bene. Ok, radio buona, sì. E allora io come semitter ce l'ho un po' sballato, non te lo so leggere, però ti sento bene, ti capisco bene. E capo. E Claudio come non lo ascolti, pure va bene qua, Perché la terra bassa sicuramente c'è qualcosa davanti che lo ostacola tu. Da noi no, ma da Claudio magari sì. Capo. No, a me è sempre andato bene Claudio, capito? A parte quando era Sassari anche qua, che fuori, io sono fuori lo stesso. Io sappi, io sono, diciamo, a 2 passi dall'ospedale San Camillo, poi tutto. Sappi, hai copiato. Tu sei già a metà strada, tu. Come a metà strada, cioè? Sì, verso Sorso, no. No, metà strada, di capita. Ma qua sono circa 5-6 km. Sì, ma in linea d'aria sto dicendo. In linea d'aria sei più vicino di me. Sì, quello sì. Sono, diciamo, e lui è più in basso di me, perché adesso è un po' altino, capito? Rispetto come Sorso, a Senoli non me ne manco la passo un CB, tutta. Eppure dovrei riceverlo bene se c'è, ma non c'è nessuno. Poi se la resi no, non ci sono più. Diciamole ebrei, diciamole. Sappi, ci sei. Cappa che ci sono, ci sono. Guarda che vedi i generi. No, nessuno, la gente in Senoli non vede nessuno. Manco un cipidotto, Ma vedi mica qualcuno prima, chi cacca antenna, la vedi anche con Basturia, però vabbè, vuol dire non la negana. Non è di Moccabissuria, non con Basturia. Cabissuria. ma lui è il sorso, eh? A Sassa è Cabuscuria, e su sì che Cubascuria, e Sinarese è Cubascura, ognuno va a San Berrita sua. Come te c'è la risa? Sa Cubascura. Che da quella che sono abbassati, sono attaccati, io poi mi devo usare, io poi mi devo dialetto, c'era neanche un chilometro per il distanza, era diretto diverso. No, una è la lingua, il santo è una lingua. Lui, loro parlano il dialetto, invece i senaresi parlano la lingua santa. Sì, a vero è già. Vero è se, trapponato è o gai essemi. C'è la provincia su quello che c'è vite. Ello, ti pone su un entone e ti pone su una camicia. Ma tu la sai che c'è la barzelletta di Aladino? E qual è? E allora? Oh, su cinque, e come la parola di Bibbia, questo barattolo esce Aladino e dice esprimi un desiderio. Ogni desiderio che tu esprimi per il senarese sarà raddoppiato. E già allora se io con una Ferrari lo senarese lui sì, e se voglio 1.000 euro lo senarese 2.000 sì, allora fate una cosa, cavatemi in un occhio. A chi così allo senarese ne regalano i due, no? Ya è nuda ya! Chi si ha chi vede la vecchia vigliacca sotto la buca al figlio? Ma sempre a fare il disegno se non esegue il suo lo sappi. Magari a Zuffano no, però c'hanno sempre quella rusata, ma tu a ricchi che devo e dico, ma cosa si intende? Ma non lo vedi che noi avevamo lo mari e tu voi non fa vedi su marraggi e quindi ne esci nei conflitti e le risate, da. Ma prima nelle partite ci afferravano. Prima mi ricordo era una cosa, era come di Torre Scaglia, direi. A tipo il trust già, però da poco l'hanno fatta una turca sotto Senori, mi pare che ha perso così Senori 1-0, però prima era diverso, prima erano più puri di te, ci era diverso lo sport. Più accaditi era, adesso è più avanti di nuovo Senori. Però è a sotto, via dai suoi comitiva, su tutti di greppa. Ah, infatti. Va bene, lo cinque è simpatico, di per sé, come carattere simpatico. A me, una collega che ha sempre i bambini dentro, una voce ha detto, ma non asciutti mai tu. Dice, anche tu si riesci, vuoi andare a San Paolo, lo sai che tu viene in silenzio. No, perché lì. No, ma ce n'è anche se non risi, ce n'è un bel tuo. Cioè, non sembra la risposta pronta, Giussi. Io veramente buono non lo so, però dipende sempre dalla persona che trovi, dai, dall'individuo. A chi un bel rimane non lo so. Cabaida ne fa di più indifferenza. No, questa collega era simpatica, famigliava a me, era sempre famigliente, travagliente. E la dice, ma non asciutti mai? Sì, in silenzio, me lo sai che tu viene in silenzio, era San Paolo, la Luca Pusato. Dove sta la vista allora di Gabuia? Chissà che si ammaragnava via, lo si vede frullendo il lattine. Io e te. Vabbè, ma era simpatica, faceva ridere, poi era affettuosa, mi abbracciava sempre, era affettuosa. No, io sono tutti, sono cordiali, e poi dipende sempre da persona a persona, no? E te ne abiti subito, e vuol dire che chi sei da tranquillone. Ah, ma tu? Io me l'ammetto, quando c'era Morale mio cognato, io ero ragazzino, e andavo con lui a fare baccarella, si è andato a Sussu. E lui vendeva un po' di tutto, mi si mette che Sussu che aveva base, a me in ballaggio, meglio in ballaggio, non sappiamo così, ha detto, no, non so cos'è, in ballaggio, e continuava di ballaggio, continuava a ballare in sciuro, e mio cognato, figlio di me, sono in stracci, non si erano, non abbiamo, per la mano in terra, cazzo, ma carità di ballaggio. In ballaggio, ognuno c'ha il suo modo di parlare, di dialetto. E ogni tanto intanto su Facebook ci scrivono come si dice il tuo dialetto, questa parola, e scrivono tutti i dialetti, capito? Lo so, già l'ho letto con lì già. Vabbè, che ne sono fatte? Le 7:15, già, vabbè. Oh, io sono Antonio mio, niente, io però giuro tutto l'attrezzatura, ci butto in macchina, perché c'ho un tetto che cosa ha detto Tataino, una pizza peroistica. E poi fare cacciavite, eccetera, eccetera, tutto quello che mi sono portato appresso. Io sono la borsettina che allora faccio questi lavori, forbice, che cosa il sottoino, la forbice. C'è tutta una buona già praticamente, capito? Invece quando ho fatto il negozio mi sono portato proprio la valigia fermi, quella di alluminio grande. Infatti si è spaventato che il padrone dice, ehi, allora le cacciavite, poi tutto è ok. E beh, la spera fine automatica, e ne ho roba. Vabbè, invece qua qualche cosa ce l'ho, ma non è che avete questa attrezzatura di elettricità, proprio niente. Pinze, pedali, chiavi, questo sì, però l'elettricità no. Allora, mi sa che vi saluto perché io devo uscire stasera e quindi mi devo preparare, che dopo vado a prendermi, quindi porto il prima e poi vado. E io lo stesso mi lontano perché mi vado un po' in TV, poi mi mangio questa bella pasta e fagioli che ho fatto e quindi... Vabbè dai, tanto che c'ho il microfono, vi saluto. Ciao Sampi, stai bene, salutone, le prossime, ciao Gianni e ciao eventuale ascoltone. Poi se mai più tardi accendo, se c'è qualche duro, una chiacchierata me la faccio. Riprendi già, ciao ciao. Ma saluti, c'è concerto in la minore, si salvi chi può. Come va giù? Ciao Turi, ci sentiamo, ciao anche a Sampi, dai io vado. Alla prossima, ciao. E dove sto concerto già? Concerto la minore. Di Sturrici. E dove? Tu lo fai, mangiando fagioli, stanotte. Ma io lo vedevo sulla corrida, lo vedevo. Alla corrida? A proprio c'è la corrida, il 7 c'è. No, dico la corrida in televisione, a canale 9, che c'è Madius. No, io parlo davvero, mi difendo. Vabbè dai, ci sentiamo, ciao di nuovo, ciao Sapiri. E io ciao, salutoni a tutti e ciao Gianni, e ci sentiamo le prossime, dai, andate, ciao ciao. Ciao ciao. Ciao. E chi c'è? Qua Furio. Oh, segnaloni. E chi è? Allora tu, Carlo. Eia. Scappa Carlo. Allora, mi sono rientrato da poco, ero in giro. Prima eravamo qua con Antonello. E poi l'ho riaccompagnato, e poi ho fatto un passaggio da un altro amico e quindi adesso sono rientrato. Ci avevo la radio accesa, eccoci qua. Fatto rivita. E prima c'era Claudio, Gianni, sono entrato un attimo io a salutare con Antonello e poi adesso non ho sentito più nessuno a parte te. Porca miseria, a fondo scala ma arrivi qua, niente. Adesso sei con l'antenna di casa, immagino, dal segnalone. Sì, sì, sono con l'antenna di casa. Sì, sì, ha anche il segnale radio e a bomba qua. Mi vibra tutta la radio. Cavolo, arrivi forte qua. Ah no. Comunque lì è una cazzata, se vuoi migliorare e uscire forte è una cazzata risolvere la situazione. Sì, adesso almeno ho abbassato tutte le stazionarie, ce le ho a zero si può dire, e quindi già è qualcosa, almeno quando parlo o ascolto vedo solo il segnale emesso oppure quello ricevuto, e l'altro no, neanche si accende ogni tanto il LED, si accende e si spegne, capito? Quindi ottimo, ottimo, ottima taratura, dai, mi è andata bene. Va bene, sicuro che va bene. E stamattina ho provato addirittura in banda laterale e ho collegato Inghilterra e Scozia, capito? Si sentiva una bomba, si è aperta un po' la propagazione, intorno a mezzogiorno era, 11:30 a mezzogiorno. E mi hanno pure risposto, quindi ho detto cavolo, ho detto con una boomerang mai avuto così contatti oltre l'Italia, diciamo, quindi vuol dire che già è messa in buona posizione, dai, non mi posso lamentare, non è il massimo, certo, però quando la metterò sul tetto poi vediamo un po' se avrò la possibilità nel periodo primaverile estivo, vediamo un po', per adesso va bene così. Ti sto dicendo che quella boomera non la sottovalutare, quella se esce appena dal tetto, guai, quella ci può davvero. Sì, sì, è un'ottima antenna comunque, non pensavo, non l'avevo mai provata la boomerang, mai avuta, e adesso per come la sto utilizzando, ultimi risultati, niente di male, diciamo, per essere una piccolina, diciamo, rispetto alle altre antenne, diciamo, si difende bene, va benissimo. È come una grande, come che c'hai un'antenna di mezzo onda grande, se la metti sul tetto non cambia nulla, assolutamente niente. Aspetta che voleva, Ghiccio. Sì. Anda bene mera, Anto. Anda bene mera. E tu? Da cenato hai, Anto? Ho dato l'acqua al piccolino. Certo. Ancora, a che ora va, nanna? Mi sto ritirando l'impianto, perché l'ho acceso un po' a casa. Ho già collegato tutti i cavi. Ho capito, io adesso mi preparo qualcosa da cenare, veloce. E niente, poi mi guardo un po' di TV. Per oggi mi sa che per me la radio è tutto, dai, oggi ho fatto tante cose, ho sistemato un sacco di cosette. L'ultima mia, Antonello, adesso quando l'ho accompagnato un'oretta fa, praticamente mi ha dato una staffa di quelle lunghe, dove eventualmente posso attaccarla alla ringhiera e metterci un'antenna per la ricezione, capito, per fare il radioascolto, eccetera. O la posso attaccare allo stesso tubo dell'altra, capito? E così non sto attaccando alla ringhiera, l'attacco allo stesso tubo dell'altra, capito? E metto un'antenna per la ricezione, così almeno mi ascolto qualcosa. Scusa, non me ne ha buttato le cose in caffè fuori di capo, me ne ha buttato il bicchiere in terra. E magari il poverino gli è caduto, bicchiere di vetro, Anto, raccogli nel vetro allora. Li tira, cosa poverino, li tira. Quindi ho mandato un video. Perché magari col vetro magari qualcuno si può fare male. Capito, accogliene tutto. Andiamo a raccogliere il vetro. Vabbù, Antonio, dai, ci sentiamo che vado tutto a cenare adesso. E niente, ricarica batteria e quindi dai, chiudo per oggi le trasmissioni. Ce la risentiamo domani. Va benissimo, buona serata e buon tutto, dai, un bacio al tuo bimbo, a Gabriele. Ciao Antonio, buonanotte. Ciao capo, buonanotte. Mamma, è un terremoto, e oggi mano mi piglia, che se mi fate piglia folgore a casa, mamma mia. Attenzione a canale 10. Avanti, chi chiama canale 10. Luca da questa parte. Scappa, buonasera Luca. Chi è? Antonio sono. E io sto aspettando la pizza, cioè adesso accendo a vedere se c'è qualcuno quando stanno a portarmi. Ciao Luca e Antonio, io sto preparandomi qualcosa da mangiare, ho ancora la radio accesa, entro un attimino a salutarvi. E ce la risentiamo domani, dai, che ho i fornelli accesi. Bene Carlo, buon preparativo e buona cena. Io sono in attesa della pizza che ho chiamato e mi hanno detto che me la mandavano al volo, però bisogna vedere che arriva. E abbi fede, oggi è sabato sera, quindi ci saranno un bel po' di richieste perché ci sono partite, la gente si organizza, quindi le pizzerie viaggiano. Comunque dai. Già, buon appetito, io lo stesso, adesso mi trasferisco in cucina, oggi ero tutto il giorno in giro, stasera era con Antonello, capito, combinando un po' di cosettine, ci siamo bevuti un po' di birrette insieme, e niente, adesso ceno, dopo mi sparerò qualche film alla TV e niente, e poi domani domenica si rinizia. Buona serata a tutti, dai, buon fine settimana, ci sentiamo domani di nuovo. Antonio, un bacio a tuo figlio, ciao Luca e buon appetito quando arriva la pizza. Grazie Carlo, a domani. Ciao Carlo, dai, ce la risentiamo. Il giubbettino mi prende il capo, cioè, si mette a correre con le cose in moc, mamma mia, me ne fate di ripetere, mi fate. Ma è piccolino, vero? 3 anni c'ha, giusto? Eia, ma me ne combina in ogni maniera. Un tornado. Vieni qua, vieni qua. Mamma mia. Qua è una scena, Ne combina in tutti quanti i curori. E guai a distrarti un attimo, se no sembra che se ne pensi. Metti dentro un attimo, sento, sbada bomba, tutta canti facciato. Non c'è da ridere perché mi fa anche danni, mi fa. Vieni qua, ti ho detto. E purtroppo sono da solo, che lo devo gestire da solo. Purtroppo mia moglie sarà portata via Gesù Cristo. E quindi me lo devo gestire da solo. Quella è una missione. E le missioni difficili le danno i più forti. Se la fatta lei sarebbe stato diverso. Lo so, ma non si può decidere nulla in questi casi. Capo, la cosa poi va. E sapete cos'è combinenti, mamma mia. Ma sai quando sono tranquillo io, quando sono a letto? Quando è decisamente ma a casa, combinenti da che cosa, non so com'è tranquillo. Ma che ti riendi, mamma mia, cosa ha combinato? Vai tranquillo, Antonio.